ritardissimo, ma siamo qui anche questo martedì con quando avevate perso le speranze, eh? E invece no, eccoci qui. Allora, ma diciamo tutto in ordine. Benvenute nello spazio autogestito del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa. Siamo Samantha e Federica e questa è la trasmissione che vi accompagnerà dalle 22 alle 23. In ma realtà, tanto ormai la conoscete. In realtà dalle 22:30 alle 23:30 circa. Sì, quando eravamo ma che cos'è quando eravamo pelose? Sì, sì, è un incontro di diverse idee, sentimenti comuni, immagini, colori, suoni e musica. Più che sono la stessa cosa. Più semplicemente un insieme di storie raccontate da donne su altre donne e sempre e comunque senza peli sulla lingua. Sì, sì, sì, le loro esperienze, la visione della vita, i desideri, i grandi successi e le ripide cadute. Storie di donne che hanno saputo lasciare un segno indelebile nell'immaginario collettivo e che hanno influenzato e continuano ad influenzare intere generazioni di donne. E oggi vi parliamo di Franca Valeri, ovvero Franca Maria Norza, nata a Milano il 31 luglio del 1920. Già, chi non conosce Franca Valeri, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, autrice teatrale e italianissima soprattutto, autrice teatrale italianissima. Sì, nota al grande pubblico per la sua grande carriera di interprete, niente, puoi farcela, dai, su, caratterista in campo sia cinematografico che teatrale. Italiano, audizioni radiofoniche, Eier. Fra poco daremo lettura del giornale radio. Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente. Cui seguirà? Rassicuratevi, massaie, che vi rompete il capo per preparare un buon pranzetto a chi lavora per la patria. Seguirà la lista delle vivande. Suggerimenti oculati per stuzzicare l'appetito rispondendo ai sani principi dell'economia nazionale. Indi la radio si rivolgerà maternamente ai vostri ragazzi con la camerata dei Balilla e delle piccole italiane, da cui i piccoli ascoltatori potranno trarre il germe benefico del loro domani di italiani. Ma che cosa non esce dal radiodiffusore? Una giornata seduti a lui davanti non è mai sprecata, fino allo scoccare delle 24, quando nelle case degli abbonati giungono, invece degli abominevoli ritmi negri, le note squillanti di giovinezza. Eccovi ora il bollettino dei presagi, o previsioni del tempo, che annunciano cieli sereni di gloria sulla penisola. Cosa c'è? Ma no, ma io non ho sbagliato foglio. Ma scusa, se il servizio pulizie dell'ente è così manchevole da lasciarmi sul tavolo dei fogli del 1940, vero? Ah, io non mi posso accorgere, mi dispiace, con 20 anni d'abitudine sulle spalle, vero? E sveglio, ti cazzisto! Mit der Frau. ganz klein. Die Amme, die Meisterin im Stillen, flößt die Kraft ihnen schluckweise ein. Von den vielen Flößen aus Flasche, Brust und Becher, ach, wir dummen Frauen sind ja schuld. Da werden sie immer stärker, da werden sie immer frischer. Na, und reicht doch endlich die Geduld. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein, raus mit Männern aus dem Hiersein und raus mit Männern aus dem Dortsein. Die müssten längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosoph. Die klettern von Stufe zu Stufe, in der Küche stehen wir und sind doof. Die bekommen Orden, wir bekommen Schmieden, liebe Kinder, es ist ein Schmach. Ja, sie trauen sich ja, die Politik zu spielen, aber na, sie ist ja hoch danach. Raus mit Männern aus dem Reichstag, raus mit Männern aus dem Landtag, raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen raus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein und raus mit Männern aus dem Hiersein und raus mit Männern aus dem Dortsein. Sie müssten längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau. E chi di voi non ha riconosciuto la grande Claire Waldorf? Oggi grazie perché sarà grazie Claire Waldorf per aver fatto questa canzone nel 1926, inneggiando al mescolando lesbismo e attualità politica, inneggiando un urlo basta con gli uomini. E noi per questo ve l'abbiamo proposta questa sera. Naturalmente, non potevamo non rendervi partecipi della nostra scoperta. Ma torniamo a noi. Intanto vi ricordiamo che siamo sul martedì autogestito da femministe e lesbiche e che il nostro contatto è mfla@ondarossa.info, oppure se proprio volete telefonarci 06 49 17 50. Sì, se proprio non resistete, insomma. Vi risponderemo proprio noi. Allora, ma vi stavamo raccontando qualcosa di Franca Valeri. E allora, innanzitutto è una secondogenita, per quanto possa essere interessante. Nasce da una famiglia borghese di Milano, quindi media borghesia. Il papà di Franca Valeri era di origine ebraica e il loro, cioè il suo e quello di sua moglie, fu un matrimonio misto, nel senso, nel vero senso della parola. Sì, un uomo di religione ebraica con una donna cattolica. Diciamo che più importante e più interessante soprattutto per noi è il fatto che cresce frequentando il teatro e l'opera, ai quali si appassiona sin dalla giovane età. Trascorre la sua infanzia a Milano nei mesi invernali, dove va a scuola, studia e coltiva le sue amicizie, e poi le lunghe vacanze estive le trascorre fra Riccione, Venezia e la Svizzera. È già un'infanzia davvero brutta. Però purtroppo qualcosa di brutto c'è, perché nel 38 arrivano le leggi razziali, le infami leggi razziali, e per tutti gli ebrei ed anche per la famiglia, compresa la famiglia, esatto, Norza, inizia un periodo non molto facile, e la stessa famiglia Norza, come tutte le altre famiglie ebree, sarà privata di alcuni diritti fondamentali, della tranquillità e della serenità, quella serenità proprio che aveva caratterizzato la giovinezza di Franca Valeri. Little baby, don't you cry. singing. Then you spread your wings and you take the sky. But till that morning, never nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. Era Summertime, Billie Holiday. Ma parlavamo di Franca Valeri. Eh sì, e parlavamo del fatto che inizia recitando delle caricature già dalla prima guerra, già prima della guerra, scusatemi, niente, questa sera incrocio le parole. Gliela vuoi fare, ma dai. Sì, e comunque già da prima della guerra, durante l'adolescenza, perché le piaceva riunirsi con le sue amiche, con le quali inscenavano una sorta di teatrino, così, per divertirsi fra amici e parenti. Ma proprio così, per divertimento... Sì, nascono tutta una serie di personaggi che poi saranno dei personaggi che caratterizzeranno tutta la sua storia, sì, la sua carriera, tra cui il famoso la famosa signorina snob che sarà poi io ho scoperto soltanto in questa occasione che è lei Cesira la manicure. Eh sì, la signorina snob Cesira la manicure e la grande signora Cecioni. Una romana famosissima, la conosciamo tutti del resto, eh no? Sì, tra l'altro sempre al telefono con mamma. Eh sì. Mamma mia, fammi fare un'indagine per queste quattrini da deposità. Con queste banche che stanno sempre sotto assalto, non so che fa. Ma guarda come sto fatta, proprio come mamma. Tanto mi piace, vero, delitto passionale, suicidio, quelle cose là del sentimento. Mi sta sui nervi a rabbina, guarda un po'. Fammi provare a telefonare, va? Pronto? Banco de Varese? Mi scusi, mi saprebbe di dove sta? No, il banco sono dove sta, sto sotto casa mia, dico Varese. Ah, sta proprio su nel nord, diciamo, proprio a zona di assalti. Grazie, come non detto, ci avevo dei quattrini depositati, mi riporgo altrove. Grazie. Fammi provare una banca del geografico qua più vicino, va. Banco de Roma. Mi pare pure troppo vicino, tanto pare li tenga a casa. Comunque, tanto per informazione, si sa mai. Pronto? Mi scusi l'informazione, il banco è di Roma-Roma proprio, oppure... Ecco, siccome ci avrete quattrini da depositare per un conticino corrente, insomma, di poter anche staccare a segno eventualmente. E ben una diecina di mille lire, scostumato! Almeno avevamo saputo che era proprio di Roma il banco. Sicché Grotta Ferrata non c'è sta banca, Rocca de Papa, né Priore, né Amatrice. Fammi provare Amatriciana, va. Pronto? Banco d'Amatrice? Senta, per una somma privata. Ma che è sto rumore? Ma com'è il telefono? Ma guardi che la stanno a saltare. Ma se io dico di guardare, scusi, che interesse mio, sto a casa mia, lei sta a banca, scusi. E beh, che io devo da di? E lei può ridere come gli pare, per vero non sparo, per lei era al telefono, dell'orecchi non è disputando, come che dicono, vero? Io i quattrini miei non ce li porto là, scusi, manco arzù come faccio più a matriciana. Rio della Plata. Tanto mi piacciono queste cose esotiche, fammi provare. Pronto il Banco del Rio? Come scusi? C'è sta assalto in corso? Mi scusi tanto, richiamo dopo. Mamma, fammi segnare il numero per scordarmelo. Sì, che c'è sta pure autofilotranvieri. Hai capito che i soldi del filobus sono fatti a banca? Non fosse che nonna mia va a circolare, zia con 90 e stava a fare un palazzo pure. Fammi chiamare mamma, va. Sempre la mamma è un'informazione importante. Pronto mamma? E che stai nervosa? Che c'è star pupo che piagne? Te lascio subito. Senti mamma, voi di banca dove vi servite? Ah beh, si capisce, hai già ragione. E si capisce. Sì. Dammi un po' il numero che mi sta incordata a mano, tanti non fatti. Pronto? Hotel al Materassaio, in persona? Senta, sono la figlia della sora Augusta, quella maritata Ceccioni. Che mi verrebbe a cardare la lana del materasso che ci devo tenere sotto dei quattrini, vorrei che mi si sciupassero. Pronto, mamma? E era lei, era la signora Ceccioni. Piuttosto che stasera, piuttosto che raccontarvi noi degli sketch, abbiamo pensato che di farveli raccontare direttamente da chi li ha fatti, sì. E dalla voce di Franca, sì. Soprattutto grazie alla tecnologia che ucciderà Samantha prima o poi, la perderemo a causa della tecnologia, comunque. Ma sarà una buona causa. Durante gli anni 50 la Valeria intraprende l'attività di attrice cinematografica e il suo esordio... Sono è... di nuovo con voi. Il suo esordio tra l'altro è con un grande e grandissimo del cinema italiano, un tale Federico Fellini. E che la fa partecipare, sì, al film Luci del Varietà, già, co-diretto dal regista Alberto Lattuada. E sì, a questo farà seguito un'altra lunga serie di commedie a fianco di altri grandi attori italiani, tra cui spiccano Sordi e Totò. Diciamo che la Valeri però nel cinema italiano è sempre stata trattata come l'attrice secondaria, quella un po' bruttina, sfortunata e zitella, questa donna che veniva dipinta alla ricerca di un uomo che poi invece preferisce sempre l'amica a lei. Insomma, non proprio dei ruoli adeguati alla sua persona. Eh sì, sì, tant'è che forse diciamo i ruoli più grandi, i ruoli più importanti li riesce a interpretare accanto a Alberto Sordi, tra cui spiccano forse i personaggi di Piccola Posta, il quale si capisce la grandezza dell'attrice che ha accanto, e Il Vedovo, un film bellissimo, consiglio a tutti di vedere, dove sono veramente una grande coppia Alberto Sordi e Franca Valeri. Sì, però per tornare a Piccola Posta... mi dici quello là che dove lei interpreta la contessa... Dove lei interpreta, aspetta che non mi ricordo, c'ha una rivista, ha una rubrica. Sì, sì. Piccola Posta è quella dove lei ha la rubrica, sì, è vero, sì, è vero. Lei è la contessa polacca Ewa Bolaski da Varsavia, in arte Lady Ewa. Ah, Lady Ewa. Sì, e cura le rubriche della corrispondenza della rivista femminile Adamo ed Eva, tra niente di meno che... E riscuotendo molto successo e tra le sue lettrici che vanno dalle signorine dell'alta aristocrazia fino alle sartine. In realtà dietro i panni dell'aristocratica si nasconde una donna normalissima. Lady Eva infatti altro non è che lo pseudonimo di Filumena Cangiullo, romana, la cui conoscenza più altolocata è probabilmente sua madre. Guarda un po'. E di nuovo mamma. E già, che l'aiuta nel redigere la sua divertente rubrica. Ma sentiamone una parte, così, una risposta. Piccola Posta. Per cominciare, qualche rapido consiglio alle gentili amiche elettrici che hanno sempre la benevolenza di scrivermi. A Fleur du Mal di Isernia. Dirò quello che ho sempre detto a proposito di quei molesti punti rossi della pelle che se si sviluppano si chiamano furuncoli e se restano piccini si chiamano bruffolini. Bagnali frequentemente con una pezzuola intrisa in acqua di petunia bollente e qualche goccia di cloro. Se la petunia non si trovasse, io la compravo sempre a Odessa prima della rivoluzione, ma mi dicono che ora sia meno di uso corrente. Puoi usare tranquillamente acqua semplice bollita con una buccia di popone provenzale. Un'altra lettera mi viene da un piccolo paese della Sicilia ed è firmata Bruna nell'imbarazzo. Mi dice, alta 1,45, peso chilogrammi 70, devo farmi un cappottino, potendomene fare uno solo, come regolarmi? Secondo Harper's Bazaar, la risposta è una sola, viola. Non ti mancherà una tenda, una coperta, uno scendiletto, insomma, qualcosa di morbido e di caldo che dopo aver tinto con uno di quei meravigliosi ritrovati che ha qualsiasi buon droghiere, potrai tagliare e cucire in casa e non ti costerà niente, se non forse quei pochi soldini che si possono spendere dal merciaio per ago, filo e automatici. E auguri! E qui ancora un'altra cara amica che ha bisogno del mio aiuto. È firmata Piccola Lavandaia. Mi chiede se posso inviarle una copia del mio libro Il Galateo delle Dame e alcuni schiarimenti su come comportarsi in alcune occasioni. Mi spiace di non poterti mandare il mio libro, cara Piccola Lavandaia, ma il mio editore soltanto si occupa di queste cose e se gli scrivi ne avrai certamente una copia con pagamento contrassegno. Quanto al come comportarsi, le occasioni sono tante. Come comportarsi, per esempio, se un nostro amico ci invita a passare il weekend con lui in Sardegna, mettiamo, dove ci porterà con il suo aereo privato. Prima di tutto, cara amica, ricordiamoci la puntualità. In quanto al bagaglio, dovrà essere il minimo indispensabile. Un buon cappotto di cammello, il tailleur che avremo indosso, mezza sera e basta, e forse un paio di stivali per la caccia, senza preoccuparsi dei fucili ai quali avrà già pensato il nostro ospite. Sarà inutile, di cattivo gusto, richiedere con insistenza il paracadute nel caso non ci fosse offerto. E se in volo, per una serie malaugurata di vuoti d'aria, il nostro pancino facesse le bizze, si provvederà con un minuscolo sacchetto d'incerata. A Londra ne ho visti di graziosissimi ricamati a piccolo punto, che ci saremo portate con noi. E buona traversata! E questo era un estratto da Piccola Posta, interpretato da Franca Valeri. Ma che ci dà dei piccoli consigli, ma soprattutto sul sacchettino di trapunta inglese. Oltre che il cinema, negli anni 60 Franca Valeri è una colonna portante anche nel varietà televisivo. Eh sì, qualcun altro oltre ad Alberto Sordi si è accorto delle sue grandi qualità e la invita in trasmissioni nelle quali vengono addirittura affidate a lei. Sì, soprattutto diciamo sotto quelle trasmissioni dirette da Antonello Falqui, per cui Le Divine, Studio 1, Sabato Sera, tra l'altro Sabato Sera condotta anche da un'altra grande della televisione, musica italiana, Mina. Uno, due, tre. Prova. Durante gli anni 70 inoltre fa parte della stagione fertile degli sceneggiati televisivi e proprio nel 74 scrive e interpreta la miniserie di 4 puntate Si Vendetta, quindi addirittura decide di passare alla scrittura. Eh già, anche autrice televisiva e veramente un artista tout court. Sì, 360 gradi. La vicenda, appunto, la vicenda raccontata da Si Vendetta è una riflessione sul mondo degli anni 70 e sui cambiamenti che erano avvenuti nella società italiana in quel periodo e quindi di conseguenza una riflessione anche alla rivoluzione sessuale. vissuta attraverso gli occhi ancora una volta di una signora borghese e della figlia di lei, che però è una hippie. Sì, diciamo che i suoi personaggi sono sempre delle donne, naturalmente, e amano sempre guardare e criticare, amano sempre guardare ciò che hanno intorno e denunciarlo, non per forza criticarlo, con l'ironia e la sagacità che contraddistingue Franca Valeri. Sì, è un po' un riproporre sempre, diciamo, quei temi e quelle atmosfere già affrontate in altri personaggi già in precedenza da Franca Valeri, ma con uno spessore, una sicurezza ancora più grande. Ma sentiamo nel 74 cosa ci diceva della nuova radio. Nel 1974 la nuova radio si deve adeguare alla nuova casa. La casa di oggi deve rispondere al requisito di spazio abitabile. Dunque abbiamo detto spazio e abbiamo detto abitabile. Il che vuol dire dall'uomo e non da altre entità. Faccio un esempio clamoroso. L'orecchio. Ecco, l'orecchio dell'uomo moderno esige nuove sonorità da nuovi apparecchi. Ecco, voi vedete la forma essenziale. Ed ecco i suoni che si accordano alla sua modernità. Il di Castelfambrone, ascoltato conte di Lamanto, e di quanto piace tanto. L'altra sera al bal dell'ambasciata, con l'amata la trovò. Uno sguardo e due perfetti fini, e i padrini gli mandò. Dello scandalo, c'è un errore, scusate. Tecnici, ma questa è una radiogalena camuffata, cos'è? Uno scherzo molto stupido, vero? Ecco qua, dunque, la casa dell'uomo moderno è quella casa rispondente al requisito di spazio, abbiamo detto. Spazio in cui non si possa mai dire cerca in fondo quel cassetto, ma semmai spostati che passa l'autobus. Nella casa moderna il mezzo tecnico, per esempio, ecco, il mezzo tecnico deve consentire all'uomo nuovo di agguerrire il proprio sistema nervoso anche attraverso l'orecchio, ecco, l'orecchio che esige suoni nuovi adeguati alla sua modernità. Ecco, pronto, buonasera, qui è chiamate Roma 3131 compagno. Signora, questa è la sigla, stia in ascolto. Cominciamo la nostra trasmissione. Su con la sigla. Scusate, sono mortificata, qui mi si boicotta. Cos'è il primo aprile? Dunque, la radio, fonte principe di suono, se opportunamente disegnata, può allenare l'uomo moderno ad affrontare la battaglia tecnologica, anche per quanto riguarda l'orecchio, che esige nuovi suoni. Io vivrò senza te, canta Mina. Beh, accontentiamoci. Gran bella verità, perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Senza te. anche se ancora non so come io vivrò. Mina, io vivrò senza te un live e voglio ringraziare personalmente Samantha per la scelta della canzone. Prego Federica, comunque questo poteva essere il tuo grazie perché a Franca Valeri, visto che l'aveva scelta lei. Ma ormai l'hai bruciato. Comunque, a proposito del grazie perché, vi ricordiamo i nostri contatti nella speranza in cui voi, magnifiche ascoltatrici, decideste di mandarci un bel messaggio. mfla@ondarossa.info, oppure se addirittura decidete di telefonarci 06 49 17 50. Brava Samantha. Yes. Ma durante gli anni 60 Franca Valeri pubblica anche una serie di dischi nei quali vengono registrati i suoi personaggi femminili. E questa serie di dischi viene pubblicata da quella che era forse la casa discografica più importante in quel momento. Eh in sì, Italia. Proprio per denotare l'importanza dei dischi che le vengono, esatto, chiesti di registrare. Era comunque la EMI, una voce importante in quel momento. E nascono così diversi album. Le donne di Franca Valeri, Una serata con Franca Valeri, naturalmente non poteva mancare la signora Cecioni e tutte le altre. E già, negli album ogni traccia racchiude un breve monologo dei vari personaggi i più celebri e conosciuti di Franca Valeri, conosciuti attraverso la radio e la televisione stessa. E proprio al successo televisivo si deve infatti l'album La signora Cecioni e le altre. Certo, che addirittura sceglie di mettere come copertina il personaggio della Cecioni. Certo, perché no? Se l'era anche meritato, giustamente. E sì, è divenuta celebre tra l'altro con alcune trasmissioni come appunto Studio 1 e Sabato Sera. Tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. erano Carmen Consoli e Ornella Vanoni con l'appuntamento. E facciamo un po' di gossip, sorvoliamo e facciamo gossip. Sì, facciamo un po' di gossip su Franca Valeri. Sì, che ci racconti Samantha su Franca Intanto Valeri? Intanto abbiamo scoperto che era compagna di classe di Silvana Mauri Ottieri, pare nipote di Valentino Bonpiani, però che proprio in quegli anni fondava la casa editrice Bonpiani. Tu ne sai qualcuno più interessante? il nome d'arte Franca Valeri viene scelto in un secondo momento, negli anni 50, e proprio perché glielo suggerisce la sua amica. Hai visto? E fra l'altro pare che il padre spingesse molto sul nome d'arte, visto che non era proprio troppo convinto che la figlia avrebbe fatto una grande carriera e quindi preferiva non portasse il suo cognome. Come al lupo. Ebbene, al lupo. Sì. Io so più la gara. Sì. Comunque, Franca Valeri, lo sapevi che è stata sposata per circa 30 anni con Vittorio Caprioli? Addirittura anche lui era un attore e un regista, quindi proprio una coppia lavorativa, sentimentale. Sì, pare abbiano anche lavorato assieme. 30 anni hanno saputo reinventarsi. Loro altri, sì. Però no, io direi anche che lei è una donna dai lunghi rapporti, visto che poi successivamente sarà legata per 10 anni ad un direttore d'orchestra. Eh già, a Maurizio Reinaldi, tra l'altro scomparso nel 1995. Sì. Ma questa è interessantissima, sì. Visto che Franky ha Energy, io lo conosco molto bene. Personalmente. sì, veramente personalmente, visto che l'ho incontrato più e più volte. E nel 2003 collabora con Franca Valeri, che fa la sua voce per il prologo e l'epilogo dell'album Ero un autarca. Io vuoi fare. Niente, scusa, sa una cosa? Ero un autarchico. Ah, ok. Bell'album. Ho imparato a dire MFLA e ho perso la capacità di dire tutte le altre parole. Ma tu lo sapevi che il 19 ottobre del 2010 Franca Valeri viene invitata all'Università degli Studi di Milano e dove gli viene conferita la laurea ad honorem in lettere, in facoltà nella quale si era iscritta appena maturata, appena uscita dal liceo, ma che aveva abbandonato però per seguire la sua grande passione, appunto il teatro. Noi siamo contenti che Franca Valeri abbia abbandonato l'università per seguire la sua passione del teatro. Ah sì, tanto perché... poi la laurea gli erano lo stesso. E comunque noi non avremmo avuto la signora Ciccioni, che non mi sembra poco. Ma oltre a questo, il giorno dell'8 marzo del 2011... Le viene conferito da parte del capo di stato Giorgio Napolitano il titolo di cavaliera, io direi, scusatemi, però mi permetto di coniare questa. Brava Federica, brava. Il titolo di cavallerizza dei Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ma tu lo sai con che motivazione? Per la laurea presa. Brava, ma anche per la maestria e l'intelligente ironia che hanno caratterizzato la sua lunga carriera teatrale, cinematografica e televisiva. Benzina Italiana presenta Gabriele Ferzetti, Franca Valeri. Sapete che cos'è la deformazione professionale? No? Ebbene, ve ne darò un esempio con questa allieva della mia scuola guida. Pronto, pronto, pronto, innesto la spina, l'avviamento è pronto? Ma cosa dice? Ma non vede che ha messo il tergicristallo? Un momento di pazienza, il motore non mi risponde, prova su un'altra linea. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto chi parla? Ma come chi parla? Io parlo! No, ma via gas, su! Brava, brava! Ora si inserisca nella sua corsia. Senz'altro, sono in linea. Aspetta la seconda. Vettura Roma 44-25-00 in linea. Non può dimenticarsi per un momento di essere una centralinista. Impossibile. Eh? Io ho il telefono nel sangue. Io sono di Imola, mio padre è di Otranto. E sua madre di Empoli? Come ha fatto a indovinarlo? Per forza doveva fare il telefonista, perché Empoli, Otranto, Imola sono città essenzialmente telefoniche. E a te? No. Cosa fa? Accende la luce ora, lo sai che ore sono? Sono le 5... 17.01, ore 17.01, 17.01. E due, eh? Sono esattamente le 17.01 e 1. No, e due, volevo dire due passanti che lei ha evitato per miracolo. In questo passo alle 18 lei farà il voto per le strade. Dove se ne va così tutta a sinistra? Desidero sorpassare quella macchina interurbana. Lasciamo perdere, eh? Ecco, piuttosto si mantenga in linea. Senz'altro? Vede quella luce? Sotto c'era una chiamata. Ma che chiamata? Questo segno vuol dire che siamo in riserva. Vada da quella parte. Senz'altro? Perché? Perché dobbiamo fare benzino. Prego, ripeta più forte. B come Bologna, E come Empoli, Mi ridete di Superga. Tu per corte maggiore? Certo, la potente benzina italiana. Buon viaggio, buon viaggio, ma con Supercorte Maggiore, la potente benzina italiana. Con Supercorte Maggiore, potente, potente, vedrai come rende il motore, veloce, veloce, viaggio. Per le strade italiane, Supercorte Maggiore, la potente benzina italiana. Era un fantastico carosello, Franca Valeri, sulla benzina Supercorte Maggiore. Ve ne abbiamo voluto omaggiare perché siamo rimaste colpite dalla benzina Supercorte Maggiore, questa è la verità. Ma siamo giunti al momento del grazie perché, oggi un po' più veloce perché siamo visibilmente in ritardo, quindi tanto voi non ci avete scritto, quindi sarà ancora e quindi più ora veloce. Vi sorbirete i nostri grazie perché. Sì, allora, inizio io. Certo, va prego. No, okay. Certo, se sei così propensa al tuo grazie per sì, te, ti lascio libero spazio. Voglio essere decisa così, voglio prendere posizione. Sono contenta che tu abbia preso posizione. Leggi il tuo grazie perché. Allora, un grazie a Franca Valeri perché ha affrontato sempre con grande ironia tutti i personaggi femminili che ha interpretato e ne ha interpretati tanti, e rendendoceli tutti un po' più simpatici, anche quelli che poi tanto simpatici non erano. Bello, ecco perché avevi preso una buona decisione. Vero. Brava, hai fatto bene a grazie. Portarla avanti. E invece io la voglio ringraziare perché mi ha esorcizzato, almeno per quanto mi riguarda, tutte quelle telefonate che potevo fare a mia madre, ma non perché come la signora Ciccioni, ma proprio perché hai presente quando non ti viene in mente una cosa e dici fammela dire a mia madre, lei la sa. Pronto mamma? Pronto mamma? La ragazzina deve piaria. Sei nervosa? E io invece voglio anche ringraziarla perché ha interpretato un film che io adoro, Il Vedovo, e ha interpretato la signorina, la signora Elvira Almiraghi, e penso che come l'ha fatta lei nessun'altra avrebbe potuto farla, quindi la voglio ringraziare per questo, per averci donato questo grande personaggio. Proprio in questo momento mi è venuta un'illuminazione e sento di dover ringraziare Franca Valeri perché nei suoi personaggi ha sempre saputo trasmettere il suo SOS di attenzione a quello che eravamo, a quello che possiamo essere, a quello che diventeremo, e è sempre con la sua ironia e la sua sagacità ha saputo far guardare in faccia agli italiani. Mi piace, però io la voglio ringraziare anche per questo. Buongiorno a tutti, sono Franca Valeri. Lo sapete che la legge Bavaglio sulle intercettazioni nega a voi cittadini il diritto di essere informati? Era ora di saperlo. Adesso ve l'ho detto. Intendiamoci, potete sempre andare al cinema, qualche cosa la dicono, finché dura. We'll be right back. con Ius Mamò, Cambio Spiritual, siamo arrivati... Cambio Spiritual? Cambio Spiritual. Mi si è inceppata la lingua, non so. Ah, allora lo vedi che è una cosa che si trasmette. Ah sì, è come lo sbadiglio. E siamo arrivati anche oggi ai saluti. Al momento dei saluti, speriamo che voi vi siate divertite come tutti i martedì che ci incontriamo. Mm-hmm. Come ci siamo divertite. Ci ascolta. Dilla parole tue. No, non lo so come fa ad avvenire un incontro sonoro. Non so quello che succede nella tua testa. Diciamo che ci ascoltate? Può essere facile? Insomma, noi speriamo che vi siete divertite come ci siamo divertite noi sostanzialmente, dai. E intanto vi diamo appuntamento a fra due martedì come al solito. Sì, e vi salutiamo tutti il martedì femminista. Lo diciamo insieme? Il martedì femminista. Autogestito, femminista e lesbico vi aspetta martedì prossimo e grazie ancora e buonanotte a tutti. Buonanotte.